un dolore ai brontosardi. Nelle opere d'arte propriamente detta, a differenza delle Sevadas, non esiste in Sardegna una tradizione linguistica speciale, tale che si possa dire con certezza: questo è un oggetto semiologico che parla in sardo.